portarono dei biglietti da visita appena consegnati da un lacchè. «Non so cosa l'abbia presa, io non la conosco. Questo è un vostro regalo, Bassin. E dire che non vi andate esattamente per il verso giusto, povero caro, con questo genere di relazioni», e rivolgendosi a Gilbert, «non saprei neanche spiegarvi chi sia, voi non la conoscete di certo, si chiama Lady Rufus Israel». Gilbert arrossì vivamente. «Non la conosco», disse, il che era tanto più falso in quanto 2 anni prima della morte di Swan Lady Israel si era riconciliata con lui e chiamava Gilbert per nome. «Ma so benissimo, per sentito dire, chi è la persona di cui parlate». Venne a sapere che una ragazza le aveva chiesto, per cattiveria o per goffaggine, come si chiamasse suo padre, non l'adottivo, ma il vero. E lei, nel suo turbamento e per snaturare un poco quel che doveva dire, anziché Swan, aveva pronunciato Svan. Cambiamento che, come s'accorse un attimo dopo, era peggiorativo, giacché di un nome d'origine inglese faceva un nome tedesco. E aveva persino aggiunto, avvilendosi per innalzarsi, «Si raccontano tante cose diversissime sulla mia nascita. Io devo ignorare tutto». Per quanta vergogna dovesse provare Gilbert, in certi momenti pensando ai suoi genitori, già che Madame Swan rappresentava ed era pur sempre per lei una buona madre, di un simile modo di concepire la vita, bisogna purtroppo ricordare che gli elementi gliene venivano con ogni probabilità dagli stessi genitori, dato che non ci si fa di sana pianta da soli. Ma a una certa somma d'egoismo che esiste nella madre si viene ad aggiungere un egoismo diverso, inerente alla famiglia del padre, il che non sempre vuol dire che si addizioni ad essa, e nemmeno che funga propriamente da multiplo, ma che dà luogo a un egoismo nuovo, infinitamente più potente e temibile. E da che dura il mondo? Da che famiglie in cui un certo difetto esiste sotto a una certa forma si imparentano con famiglie in cui esso esiste sotto un'altra, creando nel figlio una varietà particolarmente completa e detestabile, gli egoismi così accumulati, per non parlare qui che dell'egoismo, acquisirebbero una tale potenza che l'umanità intera ne sarebbe distrutta, se dallo stesso male non nascessero, capaci di riportarlo a giuste proporzioni, restrizioni naturali analoghe a quelle che impediscono a una proliferazione infinita degli infusori di annientare il nostro pianeta, alla fecondazione unisessuata delle piante di provocare l'estinzione del regno vegetale, eccetera. Di tanto in tanto, una virtù viene a comporre con questo egoismo una potenza nuova e disinteressata. Le combinazioni grazie alle quali nel corso delle generazioni la chimica morale fissa così e rende inoffensivi gli elementi che stavano diventando troppo temibili sono infinite e darebbero un'appassionante varietà alla storia delle famiglie. D'altronde, con un accumulo di egoismi quale doveva esistere, in Gilbert coabita qualche incantevole virtù dei genitori, che per un istante viene a fare da sola un intermezzo, a recitare con assoluta sincerità il suo ruolo commovente. Certo, Gilbert non si spingeva sempre tanto in là come quando insinuava ad essere forse la figlia naturale di qualche grande personaggio, ma le proprie origini le dissimulava il più delle volte. Forse le riusciva semplicemente troppo spiacevole confessarle e preferiva che le si venisse a sapere da altri. Forse era davvero convinta di poterle nascondere, con quella convinzione incerta che tuttavia non è dubbio e che lascia una possibilità a quanto si desidera, cosa di cui Musset dà un esempio quando parla della speranza in Dio. «Non la conosco personalmente», riprese Gilbert. Ma poteva davvero sperare, facendosi chiamare Mademoiselle de Forcheville, che si ignorasse che era la figlia di Swan? Nei confronti forse di certuni, che col tempo sperava sarebbero diventati tutti. Sul loro numero attuale non doveva farsi molte illusioni, giacché con ogni probabilità sapeva come fossero in molti a sussurrare «È la figlia di Swan». Ma lo sapeva di quella stessa scienza che, mentre andiamo al ballo, ci parla di persone che succedono per miseria. Una scienza, cioè, lontana e vaga, che non abbiamo nessuna voglia di sostituire con una conoscenza più precisa, derivante da un'impressione diretta. Poiché la lontananza ci rende le cose più piccole, più incerte, meno rischiose. Gilbert trovava inutile che la scoperta che era nata Swan avvenisse in sua presenza. Gilbert apparteneva, o almeno appartenne in quegli anni, alla più estesa varietà degli struzzi umani, quelli che nascondono la testa nella speranza non di non essere visti, cosa che credono poco verosimile, ma di non vedere che sono visti, cosa che sembra già molto e consente loro di rimettersi, per il resto, alla buona sorte. Gilbert preferiva non essere vicina alle persone nel momento in cui scoprivano che era nata Swan. E poiché si è vicini alle persone che ci si rappresenta, ed è possibile rappresentarsi le persone mentre leggono il giornale, Gilbert preferiva che i giornali la chiamassero Mademoiselle de Forcheville. È vero che per gli scritti di cui lei stessa era direttamente responsabile, le sue lettere, amministrò per qualche tempo la transizione firmando G.S. Forcheville. In questa firma, la vera ipocrisia si manifestava meno con la soppressione delle altre lettere del cognome Swan che di quelle del nome Gilbert. In effetti, riducendo quell'innocente nome alla lettera G, Mademoiselle de Forcheville sembrava insinuare agli amici che anche l'amputazione inferta al cognome Swan fosse dovuta a motivi d'abbreviazione. Alla S dava anzi un risalto particolare, facendone una sorta di lunga coda che andava a sbarrare la G, ma che si sentiva transitoria e destinata a sparire, come quella che, ancora lunga nella scimmia, non esiste più nell'uomo. Malgrado tutto questo, c'era nel suo snobismo qualcosa della intelligente curiosità di Swan. Ricordo che quel pomeriggio chiese a Madame de Guermont se non avrebbe potuto conoscere il signor Dulot. E poiché la duchessa le rispose che era indisposto e non usciva di casa, Gilbert chiese come fosse, dato che, aggiunse arrossendo leggermente, ne aveva tanto sentito parlare. Il marchese Dulot era stato infatti fra gli amici più intimi di Swan prima che questi si sposasse. E forse Gilbert l'aveva anche intravisto, ma quando non aveva interesse per quel mondo. «Potrei farmene un'idea dal signor di Proté o dal principe di Agrigento?» si informò. «Oh, no, davvero!» esclamò Madame de Guermont, che aveva vivo il senso di queste differenze provinciali e tracciava ritratti sobri ma coloriti dalla sua voce dorata e rauca sotto la dolce fioritura dei suoi occhi di viola. «No, no, davvero!» Dulot era il tipico gentiluomo del Périgord, affascinante, con tutti i bei modi e l'impudenza della sua provincia. A Guermont, presente il re d'Inghilterra, di cui Dulot era molto amico, dopo la caccia c'era una merenda. Era l'ora in cui Dulot aveva l'abitudine di togliersi gli stivali e infilare certe grosse pantofole di lana. Ebbene, la presenza di re Edoardo e di tutti i granduchi non gli creava il minimo imbarazzo. Lui scendeva nella sala grande di Guermont con le sue pantofole di lana. Riteneva che il marchese Dulot d'Almont non dovesse farsi particolari riguardi per il re d'Inghilterra. Ah, lui! E quell'incantevole Quasimodo de Breteuil erano i due che mi piacevano di più. E del resto erano grandi amici di... stava per dire di vostro padre e si interruppe di netto. No, no, niente a che vedere né con Grigri né con Breté. Lui è il vero gran signore del Périgord. Del resto Mémé cita una pagina di Saint-Simon su un marchese d'Almont. È esattamente la stessa cosa. citai le prime parole del ritratto. Il signor Dalman, che era un uomo assai eminente nella nobiltà del Périgord, sia per nobiltà propria sia per merito, e da chiunque vi dimorasse era considerato come un arbitro generale al quale far ricorso in ragione della sua probità, capacità e dolcezza di modi, e come un gallo di provincia. Sì, c'è qualcosa di tutto questo, disse Madame de Guermont, tanto più che Dulot è sempre stato rosso come un gallo. Sì, ricordo d'averlo sentito citare questo ritratto, disse Gilbert, senza aggiungere che a citarlo era suo padre, grande ammiratore, infatti, di Saint-Simon. Le piaceva parlare del principe di Agrigento e del signor di Broté anche per un'altra ragione. Il principe di Agrigento lo era per eredità della casa di Aragona, ma erano signori del Poitou. Quanto al suo castello, quello almeno in cui risiedeva, non era un castello della sua famiglia, ma della famiglia di un primo marito di sua madre, ed era situato più o meno alla stessa distanza da Martinville e da Guermont. Gilbert, così, parlava di lui e del signor di Broté come di vicini di campagna che le ricordavano la sua vecchia provincia. Materialmente, nelle sue parole, c'era una parte di menzogna, perché era solo a Parigi tramite la contessa Molé che aveva conosciuto Broté, d'altronde vecchio amico di suo padre. Quanto al piacere di parlare dei dintorni di Tansonville, poteva essere sincero. Per certe persone lo snobismo è analogo a quei beveraggi gradevoli cui si mischiano sostanze utili. Gilbert si interessava a una certa donna elegante perché possedeva dei libri stupendi e dei natier che la mia vecchia amica probabilmente non sarebbe andata a vedere alla Bibliothèque Nationale e al Louvre. E immagino che, a dispetto dell'ancor più prossima vicinanza, l'attrazione di Tansonville avrebbe avuto meno effetto per Gilbert su Madame Sazerat o Madame Goupil che sul principe di Agrigento. «Ah, oh, povero Babal, povero Grigri!» disse Madame de Guermont. «Stanno molto peggio di Dulot. Ho paura che non ne abbiano più per molto, né l'uno né l'altro». Quando il signor di Guermont ebbe finito la lettura del mio articolo, mi rivolse dei complimenti, d'altronde moderati. Non approvava lo stile, un po' abusato, in cui c'era dell'ampollosità, delle metafore come nella prosa antiquata di Chateaubriand. Si rallegrò invece, senza riserve, del fatto che mi occupassi. «Mi piace che uno faccia qualche cosa delle sue 10 dita. Non mi piacciono gli inutili, che o si danno delle arie o sono degli esagitati. Sciocca genia!» Gilbert, che prendeva con estrema rapidità i modi del gran mondo, dichiarò quanto sarebbe stata fiera di poter dire che era amica di uno scrittore. Figuratevi se non dirò che ho il piacere, l'onore di conoscervi. «Non volete venire con noi domani all'Opéra Comique?» mi chiese la duchessa, e io pensai che sarebbe stato di certo nella stessa barcaccia dove l'avevo vista la prima volta e che allora mi era parsa inaccessibile come il regno sottomarino delle Nereidi. Ma risposi, con voce triste, «No, non vado a teatro. Ho perduto un'amica alla quale volevo molto bene». Dicendolo, avevo quasi le lacrime agli occhi. Eppure, per la prima volta parlarne, mi faceva un certo piacere. Da quel momento cominciai a scrivere a tutti che avevo avuto un grande dolore e a smettere di provarlo. Quando Gilbert se ne fu andata, Madame de Guermont mi disse: «Non avete capito i miei cenni, era perché non parlaste di Swann». E poiché mi scusavo: «Ma vi capisco benissimo, anch'io sono stata lì per nominarlo, ho avuto appena il tempo di riprendermi. È terribile. Fortuna che mi son fermata in tempo. Sapete, è davvero imbarazzante», aggiunse rivolta al marito, per diminuire un po' la mia colpa, lasciando credere che avessi obbedito ad una propensione che era comune a tutti e a cui era difficile resistere. «E che ci posso fare?» rispose il duca. «Non avete che da dire di riportarli su, quei disegni, visto che vi fanno pensare a Swann. Se non penserete a Swann, non parlerete di lui». Il giorno dopo ricevetti 2 lettere di felicitazioni che mi stupirono molto. Una di Madame Goupy, una signora di Combray che non vedevo da tanti anni e alla quale, anche a Combray, non avevo rivolto la parola più di due volte. Un gabinetto di lettura le aveva procurato il Figaro. Quando nella vita ci succede qualche cosa che fa un po' di rumore, ci arrivano notizie di persone così lontane dalle nostre relazioni e il cui ricordo è già così antico da apparire situate a una grande distanza, soprattutto nel senso della profondità. Un'amicizia di collegio dimenticata, che aveva 20 occasioni per farsi ricordare da noi, ci dà un segno di vita, non senza compensazioni, peraltro. Così Bloch, che avrei tanto voluto sapere cosa pensasse del mio articolo, non mi scrisse. Veramente lo aveva letto e più tardi lo avrebbe ammesso, ma come di contraccolpo. Qualche anno dopo, infatti, scrisse anche lui un articolo sul Figaro e immediatamente volle segnalarmi l'avvenimento. Venuto meno così quello che considerava un privilegio e cessata, come un compressore che si solleva, l'invidia che gli aveva fatto ignorare il mio articolo, me ne parlò, in modo affatto diverso da come desiderava sentirmi parlare del suo. «Ho saputo», mi disse, «che anche tu avevi fatto un articolo, ma temendo di darti un dispiacere, mi era parso di non dovertene parlare, perché con gli amici non bisogna parlare delle cose umilianti che gli succedono». Ed è tale, evidentemente, scrivere sul giornale della sciabola e dell'aspersorio, dei 5 o'clock, senza dimenticare l'acquasantiera. Il suo carattere era rimasto lo stesso, ma lo stile era diventato meno prezioso, come succede a certi scrittori che abbandonano il manierismo quando, smettendo di fare delle poesie simboliste, scrivono dei romanzi d'appendice.